Alghero. Alghero, perché? Così. No. C'ho gente a casa oggi. Devo venire un amico. C'ho una cena che compleanno di Anna oggi. Ah, fare gli auguri da parte mia allora, a 30 anni. Grazie, Ogarie. Non so bene, mi stai ascoltando, sto provando l'altro K che è sempre fermo. Benissimo, se non ti dico niente, è una bomba. Ah, giusto, sei radio, grazie. Dopo il 4.40, i 4.30, 140 sono spettacolari. Sono 6 mesi sulla radio. L'ho accesa oggi, aiutaci che ti attacco. L'alimentazione invece funziona ancora, perfetta, cazzo. No, va bene, la grande, potente, come al solito. Sì, vabbè, questi una volta di zucchio mi tocco mai. La potenza è 25 watt importante, 50 modulati. Mi tocco sempre 60. Va bene. Ma era un bel iter. Da quando mi sono traslocato non l'ho più usata questa. Sempre 4.30 c'era acceso. Anche se non sono in trend, va. Ho schiacciato per vedere se funzionava, se funziona bene. Oh, io era grande, claro. Un bijou. E dopo sempre rifando il vostro baracchino, perché lo smitter mi dà nervi, cazzo. Perché una volta che scalda si rimette a posto, adesso ce l'ho a 3. Però di solito mi sale a 9, così, 9, 9, 10. Sai da cacchio va. Stavo dicendo ad Antonio che potrebbe essere il come si chiama? Il trimerino. Sì, lui, il baracchino non è che ci siano molti giochi da fare, potrebbe essere il trimerino difettoso. Capito? Bisogna sostituirlo, vedere cosa c'ha, magari faccio contatto, non gira bene. Sì, trimerini so giocato, capito? Ascolta, tu stai arrivando a Santiago Nove, io come ti sto arrivando, bene? Scusa, Clara, ripeti? Vai, dove tu sei? Santiago Nove, anche qua, Nove abbondante. Dove sei, la Marina? Sì, tu sei quasi sul più. Allora c'è giusto, già va bene. Sì, anche il tuo segnale è uguale a quello del 430, quindi anche lo smitter è rimasto perfetto, va. Sì, a voi, adesso mi assedio a 9. Cazzo, impazzisce qua, non so cosa gli abbia preso. Però il segnale non varia, quindi la potenza non si abbassa, è proprio un problema di trimmer. Scusate, il messo è a posto, a 9 sale. Quando vado a fischiare, impazzisce, blu. E pensavo fosse lo smitter, invece non è lo smitter. Comunque siamo sicuri che lo smitter è a posto, questo me l'aveva dato Gianni, doppio room. Ed è perfetto, nuovo, l'altro era un po' difettoso. No, va bene. No, il segnale non si abbassa, quindi non è un problema, capito? Non è un problema di gozio, è un problema sicuramente di trimmer. Sì, mi sto scrivendo anche un Antonio, mi serva. Oh, salutalo, io sono ancora col telefono, no, non è che funzioni molto bene. Stiamo aspettando se ci mettono il ripetitore nostro. Ancora so a Pirisci, da prima della pandemia avremmo detto sì, veniamo a fare un sopralluogo, cazzo, non servi più Pirisci. Guarda un casino. Ma per quanto riguarda l'internet? Sì, per quanto riguarda l'internet anche qua non passa fibra, non passa niente, capito? Quindi i segnali sono molto bassi, sia la Vodafone, anche la TIM, un po' più alta è Windy 3. Ma gli altri sono tutte basse segnali, quindi io come telefono non è che sono molto, molto messo bene, a volte prende, a volte non prende, capito? Quindi ho abbandonato il telefono. Aspetta due secondi, mi rispondo a Antonio, un attimo. Fai, Lucia, sono qua, io tanto sto facendo apposta. Prova radio, prova. 1, 2, 3, prova. 1, 2, Paolo su 10. Ciao Robert. Ah, ciao ciao Fabio. Si tira campo. Come tutti, e tu? Come va? Già vabbè, fai quello che può, un po' tranquillo sono, ma almeno qua mi svago un pochettino, è inutile che mi sdrai da qualche parte, sono rilassato qua. E cerco un po' di scaricare lo stress quotidiano. Infatti, a noi adesso ci ammazza lo stress, non tanto le altre cose. Questo stress che è sempre presente, che non ti lascia neanche dormire, la rottura veramente. E poi più si diventa vecchio e peggio è. Non so, te ne accorgi dopo i 50, che ogni anno è più valgono a 10 di quando ne avevi 20. Appunto, e quando sta con l'età non spensa niente, spensa di divertirsi e basta. I problemi arrivano dopo. Mio padre diceva sempre, i dolori sono come i soldi, chi ce li ha se li tiene. Ma io li spendo, quindi vorrei anche vendere i dolori. Se qualcuno ne vuole, le faccio pagare pochissimo. Magari se potesse fare così, scarichi tutto, ti pigli una chiavetta e te li metti in cosa, sul PC. Li vendi su Amazon. Dolore certificato, che so, la schiena, vendesi, prezzo di favore. Ma poi a seconda dell'intensità del dolore, se c'è un mal di denti forte, cacchio, quello vale di più. A voglia. È così. Poi quelli sono dolori anche di qualità, perché ti vengono quando i dentisti sono chiusi, che ne so, a Ferragosto, a Pasqua, dalle festività di Natale. Hai detto bene, anzi, adesso diciamo la nostra generazione, la generazione di adesso, e i ragazzi già ti trovi sempre qualche, quelli che lavorano per emergenze, tipo San Nicola, quelli grossi, i coso, che sono associati, ma prima se ti veniva il 24 di Natale sino al 28, sino al 27 te lo tenevi il dolore. Infatti, no, hai detto San Nicola, nome è nuovo, guarda quello che c'è un po' più sull'ospedale civile. No, San Nicola è la rotatoria di via Milano, cioè presente l'inizio, ci sono i gommisti, come è quello per andare verso l'ippodromo, sulla destra c'è il San Nicola. Ah, ho capito. Ma tu dici, aspetta, poi non mi viene. Allora, scendendo dalla caserma, la Guardia di Finanza, andando verso i Carabinieri, per intenderci, dove c'è l'Erso. Coglionito. L'Erso, vero? Sì, prima dell'Erso, hai detto bene, prima dell'Erso. Visto che non sono ricoglionito, tanto ti ho sentito. Cazzo, facevo, non mi avevi sentito, sono ricoglionito. Ciao, buonasera, beh. Sono entrato per farvi un saluto come sempre, però non mi trattengo. Questo viene a rompere la scatola e poi non si trattiene. Se devi entrare, cosa vuol dire non si trattiene? E adesso la scusa, è sempre impegnato. No, non sono impegnato, anzi, sto trattando la gente a cena, le 8:30, e niente, preparato, tutto pronto, quindi non ho nessun impegno. Ho già innaffiato perché ho visto che ancora acqua non mi sta facendo, quindi dovevo innaffiare. Però non aggiungo a mettere in radio, ragazzi, non c'ho più quella voglia, quella passione, quella cosa. Mi è passata la gana. Rubi, bene, ti sto arrivando di segnale di radio? Ah, a me hai detto qua. Rubi, a te. Ti sto arrivando bene di segnale di radio, mi sto usando il Voyage. 9:30, sì, la radio va bene, naturalmente non è paragonabile all'altra, ma è chiara, pulita. Sì, idem, io c'avevo uno stanotte in arrivo e ti ho risposto a metà. Ah, già va bene, si può accettare come radio, non è male, certo non è l'MC60, comunque risponde abbastanza bene anche questa, non la uso mai, invece la facciamo andare un pochino. Bisogna farle camminare, ce l'hai insegnato tu qua, bisogna farle camminare in radio. Ma io non è che sto entrando molto, perché però sto ascoltando parecchio, a volte mi va di entrare, ma ogni tanto entra qualcuno che non mi fa manco di sentirlo, quindi spengo direttamente. E niente, però in linea di massima già sono sempre accese le varie. Queste poi, quelle che ho io, sai, roba, io non ho più il 440 che devi tenerlo sempre acceso, io ho il 430, i 757, quindi sono dei Caterpillar che non hanno bisogno di stare accesi, quando lo accendi già funziona sempre. possono stare anche spediti. Quindi va bene questa radio, è accettabile. Ed è al minimo, è proprio bassa come modulazione. Mickey Green ce l'ho a 1, niente, ora il microfono non è regolabile, è un MC50. Ah, con l'MC50 stai andando? Sì, MC50, processore inserito e Mickey Green a 1. Proviamo a metterlo a 2, vediamo se è troppo alto. Ecco qua, così è a 2, è troppo alto. No, la parte mia va meglio così, meglio a 2. Ah, bene, bene, così abbiamo trovato le scamottaggi, dato che l'ho messo a 1, visto che lo smitter si muove abbastanza, meno a burottosa di latta, ho già fatto, no? Ma io ti sto ascoltando con un baracchino praticamente, però mi piaceva più prima era da questo proprio di vecchietti, di quelli di panchina che ci stanno 3-4 ore a parlare prima di rientrare, e quella è quella che piace a me, ti adatta anche alla nostra età se vogliamo. Quindi questa è troppo alta, ho capito, se la rimettiamo a 7, a 2, cioè a fanculo a 1, ecco qua, l'abbiamo rimessa a 1, già va bene così, vai Roberto. Guarda, abbassa la radio a Claudio, è come che ha un uccellino, gli tagli le ali, gli spezzi le ali, è uguale, Claudio deve parlare con la voce potente per farsi ascoltare, è contro natura, cosa ti posso dire, a Hamilton gli dai una 500, lui è più forte di lui, deve stare, no, la parte mia mi piaceva più la seconda, comunque, a parte gli scherzi, quella là era un pochettino, sì, forse più chiara, però questa è più, la sento più presente, dai. Allora, dai, la metto a 2, facciamo un mezzo, dai, ho messo 1,5, già fa, va bene così, dai. E qua è abbastanza forte, e probabilmente Roberto oramai anche lui ha orecchie, ce l'ha grande, capito? Sì, quello già ce l'ho grande, quello è detto vero. Roberto ha pensato a sentirmi, anzi, ho mantenuto, diciamo, un segnale abbastanza alto da Roberto, perché non è che siamo molto distanti, io sono un po' più su e un po' più giù, però in linea d'aria siamo uno di fronte all'altro, ma anche con te già faccia un segnale bellissimo, 9,15, Roberto 9,30 con picchia 35, però già va bene, dai. E niente, questa è la... ero riuscito, Roberto, a metterle anche la maniglia a quel Voyage, ti ricordi che non c'era la maniglietta? Un giorno mettevo a posto i cassetti, ne ho trovato una uguale, precisa, identica, ho preso e gliel'ho attaccata, adesso è proprio fiammante quella radio, mancava solo con la maniglietta. Sì, sì, infatti era l'unico difetto, era quello lì, se no ti vedi, aveva la cintola, te lo fai dire con la cintola. No, questa è una maniglietta proprio sua, originale, Noia Esio della Icon, però no, non c'è scritto niente, quindi ci sono gli attacchi giusti, ho solo messo le sue due viti e basta. Va benissimo, va bene, bella, molto bella, sono riuscito a darle un po' più di illuminazione tramite un amico che mi ha detto togli quelle lampadine che ci sono, metti led e ci illumina un po' di più, infatti così l'ho fatto, ho messo due led bianchi belli con le due resistenze. E lo smitter è l'unico difetto del 757, che c'è lo smitter poco illuminato, l'hanno sempre nato così, poco illuminato, ma adesso si vede bene, non quanto è il 430, ma comunque adesso si vede abbastanza bene lo smitter, prima sembrava spento. Lo smitter più bello c'è la 940, a me mi piace troppo. Lo smitter più bello c'è la 9 radio che funzionano, ce l'ho avuto la 940, ma lo smitter più bello in assoluto delle radio che ho avuto io è quella del 101, della IAESO, non c'è niente da fare, sempre analogico, anche quello del Millone, dell'FT1000D, quello lo stesso, un bellissimo smitter che c'era un amico, che ogni tanto entra a salutarci, grande la radio, quella versione del 904, una bestia, a me me l'ha crepato il fulmine, l'avevo mandato alla CSONG e mi avevano dato la brutta notizia che non si poteva più riparare, e quindi sono stato costretto a comprare un'altra radio. Avanti Gianfra. È così, quando prendono scariche purtroppo c'è poco da fare spesso, oppure anche se si possono riparare non ne vale la pena, è così. cosa volevo dire, da te ce n'è freddo, perché ultimamente sta diminuendo a vista d'occhio, e tra l'altro tra poco, a posto di essere le 7, saranno le 6, che ora saranno le 6, credo, o no, o di più, il contrario, non saranno le 6, le 6 meno 10, dai. Al contrario, Gianfranco, al contrario. Guarda, adesso non mi ricordo, mi sono fatto Roberto, proprio ancora non ci abitiamo qua. Quanto era Roberto? 360 o 380 metri? Mi pare su 380, 365 può essere. Una cosa del genere, 360, 380, buona cosa del genere. Allora, io ho accompagnato, perché mi serve la macchina, purtroppo ne abbiamo ancora una, adesso l'unica cosa che devo fare è prendere un'altra macchina. Ho accompagnato mia figlia l'altro giorno che aveva l'apertura del bar e siamo usciti che erano le 6 e un quarto, 10 e mezzo, cioè c'erano 6 gradi fuori, diciamo. Non ho capito se c'era sotto uno che voleva entrare o se preoccupazione, ogni tanto sale di colpo questa preoccupazione. C'è qualcuno che vuole entrare su 10? C'era anche l'altro giorno, ho visto qualcuno da qualche colpettino, anche 9,20, 9,25, però non è. I fratelli rimasti giusto per far vedere che sono più forti. Ma a me già poco mi interessa, giusto per salutarli, ma sto andando così, può fare quello che le piace. Sì, ti ho detto già fa che c'erano 6 gradi, 5,5 gradi, segnava la mattina quando sono andato a prenderla, capito? Alle 6 e un quarto, 6 e 10 del mattino. Sì, il fatto è che poi arrivi a metà giornata e ti trovi a doverti spogliare. Adesso è di moda, come si chiama, la vestizione tipo banana, no? Quando c'è freddo ti tieni la buccia e quando inizi a salire poi devi spogliare, devi avere tutto un cambio pronto. Oh, a proprio, forse ho detto io una fesseria, forse bisogna mandare un'ora indietro, no, non avanti, perché dormiamo un'ora in più, non è così? È giusto. Ma infatti così, un'ora indietro infatti. E ho detto una fesseria, ma da questo sabato cambiamo dal prossimo. Dovrebbe essere questo sabato. E se c'è qualcuno sotto, avanti che vuole entrare? È una portante, Roberto, già la stavo mettendo anche poco fa quando stavo parlando Gianfranco. Dai, io vi saluto, io mi tolgo le balle, che non ho più voglia di giocare più con nessuno. Ciao Gianfranco, ciao Roberto, mi ha fatto piacere ascoltarvi. Un saluto, buona serata, buon tutto, ciao ciao. Ciao Claudio, ci sentiamo, vai Gianfranco. Sì, Claudio, comunque il portante non ce n'è, io non ne sento, non sento niente. È dal 30 ottobre dovrebbe scattare, quindi la prossima settimana. No, questo sabato, l'altro ancora allora. Sì, l'altro ancora, è l'ultima settimana sempre del mese, no? In questo caso di ottobre. E speriamo che sia pure l'ultima perché ancora c'è, insomma, sono le 7 e c'è già buio. Se me lo porti alle 6, buonanotte, mi passa la voglia, capito? Ciao, lo so, dice la dove vanno tu, era l'ultima volta, questa cosa, invece mi sa che la devono ora. Perché molti stati hanno già diritto, almeno 5-6 stati europei hanno già diritto, poi ci sarà una confusione mondiale, per dire vai in Francia che hanno l'orario nostro, e ti dice qua sono le 5 e Francia sono le 4, cioè succedono confusioni. Ma infatti oramai è cambiato tutto, quindi lasciamo la legale, buono tassicchio, tra l'altro risparmiamo anche soldi noi che siamo a sud, sono quelli del nord che stanno rompendo come al solito, ma loro sono abituati al buio, al freddo, al ghiaccio, ma chi se ne frega, io sono sempre altruista. No, lo so, infatti per me è una fesseria, forse ai tempi antichi, negli anni 70, poteva essere, ma insomma si lavora tutte le ore del giorno, non ci sono più i discorsi di prima degli orari, che si risparmiava energia, ma che cacca energia, cioè la vita è aperta 24 ore su 24. No, noi risparmiamo un sacco di energia, perché adesso ancora si vede, forse devi fare qualche lavoretto, eccetera. Da novembre ti sfido a quest'ora a fare un lavoretto fuori, perché c'è buio, ecco. E ancora non siamo arrivati al top del buio, che se non sbaglio sarà a metà novembre, credo, se non ricordo male, a dicembre, boh. Forse c'è una portantina, no? Allora, il 21 dicembre c'è l'equinozio di coso, di inverno, ed è il punto più di luce, il punto minimo di luce, e poi dal 21 in poi iniziano a aumentare di nuovo un minuto al giorno, più o meno, le giornate. Vediamo se c'è qualcuno che vuole entrare, sento questa portantina sotto avanti. Sì, sentiamo, no, sotto di Gianfranco era. È tipo un fischiettino, no, qua era più forte. Gianfranco passava, però lo sentivo sotto. E anche io sentivo questo fischio sotto, ma non mi fa niente, né a te né a lui. No, ma è gente che sta parlando, io sotto sento gente che sta parlando, non è fortissima, però si sente, deve essere preparazione. No, importante c'era, quando è morato c'era il segnale Santiago, no, muta, ma c'era. Magari è timido questo signore, o signorina che sia. No, poi la sento, io ogni tanto ascolto, a meno che non la stia mancando quando parlo io. È capitata quando hai parlato tu un attimino, ma probabilmente io parto sempre dal presupposto, magari non se ne è accorto, oppure è timido, quello che ti dica. Sì, ma tanto non ci passa, quindi. Poi a queste potenze basse, se non passa a queste potenze basse, figuriamoci se aumentiamo un pochino. No, io sento questi che stanno parlando sotto, devono essere chissà da dove, ogni tanto ne arriva qualcuno. La preparazione è abbastanza costante quest'anno, ho visto che è sempre presente. Ma il ciclo di macchine solari quest'anno o l'anno scorso era? Mi sembra che sia quest'anno possibile, Gianfranco. Non me lo ricordo. Il fatto sta che si sentono una marea di stazioni veramente. Sì, è capitato. E poi sto notando quello che mi hai detto tu sul 15, 27, cose 135, una cosa del genere. Sento questa specie di cosa, come mi hai detto tu, sembra un segnale ripetitivo, tipo qualcosa di nautico. Ah, infatti sì, quello che ti dicevo, c'è anche una signorina che prende servizio, è perché ascolta spesso le comunicazioni, i bollettini meteo eccetera, capisce subito che è roba dedicata alla navigazione, poi ogni tanto si sente che quando c'è il tipo, se servizio di radiotelefonia marittima, una cosa del genere, infatti si sente anche il coso al telefono, però su 15 mi meraviglia un po', di questi tempi non c'è da meravigliarsi di niente, quindi è possibile che magari sia qualche servizio così per chi utilizza questi apparecchi a breve distanza, magari che ne so, è un fiume, un lago, un fiordo, loro se lo sanno. La lingua non è neanche russo, mi sa. Allora Gianfranco, da me il segnale arriva a 9, anche 9,5 arriva costantemente, adesso non lo so se c'è, che non ho guardato. La cosa mi ha meravigliato che è talmente stretta, se tu ti metti a 27,136 già quasi scompare il segnale, è strettissimo, e dopodiché non riesco a decifrarlo bene, perché ho detto, sembrava una via di metodo tra banda laterale ed FM, cioè scusa, ed AM. Ho provato a fare tutti i tipi di emissione, almeno quelli che ho io, USB, LSB e AM, niente. Non è chiara la voce, però si riesce a capire qualcosa, sembra una voce distorta, cioè quando sei fuori frequenza. Allora ho detto, esci che provo a centrarlo, niente, sono perfettamente centrato. La cosa strana è una lingua simile al russo, poi non lo so se rumeno o no, perché il rumeno più o meno si capisce che è simile all'italiano, sembra una lingua di queste del coso, dei paesi, come si chiama, dell'est, però non riesco a decifrarla, tra l'altro non si capisce neanche bene, certe volte si sente una voce femminile, si sembra che ci sia un telefono qualche volta. Sì, ma sicuramente se le capita anche Claudio l'avrà sentita. Claudio, tu non l'hai mai sentito questi. Claudio è andato a decespugliare adesso che c'è buio. Io stavo pensando invece a qualche cosa norvegese, svedese, che hanno lo stesso una lingua abbastanza tosta, no? È probabile che siano da lì. può anche darsi, però la cosa strana è che non è pulita la modulazione, c'è un segnale di 9, non dico radio 5, ma almeno 4, la senti tipo quando sei leggermente fuori frequenza, la sento un po' male io, infatti non riesco a capire che tipo di emissione stiano utilizzando, se è leggermente scrambrata, nel senso fatta apposta così. Beh, allora probabilmente una M a banda stretta, perché di lì non si usa su quei servizi, a parte che non si usa la M, ma poi è sicuramente un'emissione, può essere a singola banda laterale magari, o anzi a doppia banda laterale, una cosa del genere, però molto stretta, forse sarà per quello. No, io non riesco a decifrarla, io non ho la possibilità, quel tipo se a singola banda. Aspetta che c'è qualcuno, avanti che vuole entrare. Arrivano segnali, no, per sembrare che vogliono parlare, poi si blocca. Con computer forse, o che ci sono apparati professionali, magari con qualche apparato professionale, magari riesce a decifrarla. Io c'ho quello nautico, ci posso provare, ma... Poi c'è anche il problema che non sono soli, di norma, cioè, quando ci sono loro c'è anche propagazione varia di altre stazioni, quindi a volte spuntano loro, a volte spuntano gli altri, quindi l'ascolto è piuttosto difficoltoso. Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare, caspita, 18 gradi. Poi ti faccio fare un esperimento, Robert. Io faccio 18,9 in coso, in questa stanza radio che c'ho io, perché sta iniziando a raffreddare. Ecco, aumento poco il volume, vediamo un po'. Dovresti dire, completare il nome, Alex, una cosa del genere, dire ciao, io sono Roberto, prova. Così adesso in diretta? Sì, prova. Ciao, io sono Roberto. No, però devi dire, Alexa, ciao, io sono Roberto. Ah, questo è poi il programma, quello riconoscimento vocale. Alexa, ciao, io sono Roberto. Non me ne frega niente. Alexa, saluta Roberto. Ciao. Sentite. Cosa ha detto? Ciao, ha detto. Però è troppo lontano, io non posso avvicinare, vediamo un po', ecco, adesso è molto vicino, riprova. Alexa, ciao, sono Roberto. No, non sei volte, no, non ti, praticamente ha riconosciuto la tonalità della mia voce, e la tua la sta escludendo. Non sapevo si poteva utilizzare per fare queste cose. Normalmente Alexa cerca un negozio di abbigliamento Sassari. Mamma mia, mi saluta, no? A te ti sei antipatico. Prova, cavolo, stavo mangiando la preparazione. Prova Claudio, di sempre, l'inizio deve essere con quel nome e poi dirle io sono Claudio. Vediamo un po', aumenta anche il volume, vediamo se è un problema, ma non credo. Alexa, ciao, sono Claudio. Alexa, a ne vuoi ciulifle? No, è proprio filtrata al massimo. Non riconosce le altre voci. Sentito che colpi di propagazione che ci sono. Sono, non so se siano i soliti russi, ma non mi sembra. Io ho sentito una pernacchia invece, ho sentito anche a Luca. Ciao Luca. Anche io ho sentito una pernacchia, ma voi siete anche innanzi. Ciao a tutti. Ciao, Maria, ciao. E fallo per macchia, fallo. Ah, secondo te sei cagato addosso, qua, fregatene. Io non ho ma... Certo, io ormai della radio può come interessano, io entro se c'è Gianfranco, se c'è Roberto, di salutare poi, rimango in ascolto, ma per sé. E io anche io faccio qualche passaggio, poi mi stufo, ormai non è più come prima, dai, questo così. Vabbè, dai, riprendete, che tanto tra un po' vado a mangiare. E io ciao Luca, vai Gianfranco. Un attimino che devo uscire fuori, che chiudo la, come si chiama, che inizia a sentirsi il freddo qua. Ma che gradi c'è, Roberto, dentro? Cos'è, dentro qua? Quanti gradi hai dentro? 18 e 9, ma qua quando inizia a raffreddare non è per freddo, a casa mia c'è freddo. È un bel grande, non si sente il vento che la mia figlia che si sta asciugando i capelli. Ho detto, no, qua ce n'è 20,5, però non c'è niente acceso, ancora manco la caldaia ho acceso, adesso l'attacco. Però che per esempio io sono una casa dove non c'è la finestra, c'è l'altro, quel salone coperto con la veranda grande, e lì prendo tutto il caldo e tutto il freddo in questa stanza. Magari se vado in camera da letto ce ne saranno 21, per col caldo che ha fatto oggi c'erano le avvolgibili sollevate, le finestre di lì, ancora di lì si può sopportare. Sì, c'erano le finestre aperte, tutto, le ho chiuse, erano un po' le 3, le 4. Bella giornata, gran bella giornata, infatti è rimasto il caldo. E quasi 21 gradi sono, 20,7. Però ti ripeto, riscaldamento è spento, non l'ho accesa la caldaia. La lascio stare spenta, vediamo più tardi, prima di curicarci l'accendo un po'. No, tu di lì per freddo d'inverno, di lì d'inverno cacchio tira il vento, c'è mio fratello, vabbè lui, c'è lui di freddo lo soffre a me, a casa sua ci sono 40 gradi, e quando io entro di lì muoio, infatti dico lascia perdere, tipo quando entri al supermercato che ci sono 40 gradi che stai male, io lo sopporto bene il freddo, ma il caldo non lo sopporto, infatti sono sempre, quando entro in quei posti c'è il rischio di prendere qualche raffreddore io sempre al supermercato. Aspetta, c'era qualcuno che voleva entrare avanti? Sempre qualcuno vuole entrare, intendi? Boh, io non intendo mai nessuno. Allora, tra me e Danilo ci sono 50 metri di differenza, lo sai, no? E da quando parto io da casa, arrivare a casa di Danilo, ci sono quasi 2 gradi di differenza tra me e lui. Non lo so, dillo il freddo tira, cacchio, vengo su Granalone, mamma mia. Dillo ghiacciami la mattina, tu adesso ancora presto, ma verso novembre inoltrato, dicembre, la mattina ti trovi il ghiaccio. Sì, già lo so, infatti abbiamo già messo le gomme pronte nella macchina, l'hai già visto, vero, da Marcello, ho fatto mettere le 4 gomme già pronte termiche. Marcello, a Parigi ce n'è andato, questa è una decisione veloce, ci ha fatto un po' di giorni a Parigi. E me l'ha detto che doveva andare fuori, ma l'ha detto, fatto detto, se voleva una moto, bene in Dio, non ho bisogno di moto. Leggera quella moto. E la frase è tanto sì. Oh sì, è fuori si sente veramente al freddo. Qua ci sono adesso 19,3, c'è qualcuno che qua dice 18 ma non è preciso, e l'altro lo stesso 19. Diciamo che siamo a 19, da. Sì, già facciamo lì, qua ce n'è 20 e mezzo, 20 virgola qualcosa. Però ti ripeto, non c'è niente acceso, non so se adesso chiedo a mia moglie se vuole accendere la turbina, se no lasciamo stare spento anche perché sto aspettando gente a cena, quindi magari siamo 6-7 e fa più caldo, capito? Oggi è la partita, la puoi guardare o no? Non c'è la buona mente. Quale partita c'è la Juve? Ehi, c'è la Juve e l'Atalanta oggi gioca. No, non ne ho più io di niente, ho staccato tutto, non me la fatti più nulla. Ogni tanto mi ci riuniamo con i miei vicini in casa e lui dice là, però forse stasera non c'è perché verrà tutto spento. Siccome ci abbiamo il Carverio in vista, non c'è il corridoio del Carverio, io ho le finestre, vedo che tutto spento, di solito tutto illuminato, quindi sicuramente è andato la figlia a vedersi la partita. Ok, vai da fra. Voi che siete partitomani, ma c'è il, ho visto che su Amazon Prime danno le partite adesso, non so che cosa, a me personalmente non mi frega niente perché non le guardo, però ho sentito che adesso sono anche lì, confermate? Sì, Amazon Prime è la Coppa dei Campioni, la Champions League. Amazon, addirittura, avete memorizzato il televisore oggi? No, io ancora no, sotto ho visto che l'hanno già fatto ed è andato tutto tranquillo, ma qua siamo già tutti attrezzati e sono tutti nuovi televisori. No, anche da me sono tutti smart TV, quindi non ho problemi. No, io ho provato a memorizzare, praticamente mi ha lasciato primo, secondo e terzo normali, se voglio li metto io in HD, mentre gli altri sono passati tutti in HD, tutto Mediaset in HD e tutti gli altri in HD, Rai Move, Rai Sport, Rai, tutti gli altri tranne il primo, secondo e terzo sono rimasti normali, se vuoi lo metti tu in HD, 501, 502, 503, se non li lasci normali, sino forse a fine mese, poi cambiano. mentre gli altri sono passati tutti in HD. Davvero? Sì, avevano detto comunque che lasciavano per un pochino di tempo quelli RAI classici, però tutti gli altri RAI e tutti gli altri Mediaset hanno già commutato oggi. Adesso me l'hai ricordato, accendo e se necessario lo riprogrammo. Ma solo il 20, il problema è sul canale 20. Hai presente che 1, 2 e 3 sono gli unici canali che trasmettono il VHF, che esistono da 50 anni, la grande vita della televisione, e per cui dovranno chiuderli quei due canali e passeranno il VHF. Perché ce li hanno da quando esiste la televisione, sempre VHF dai canali radio, e sono rimasti quei tre canali. Sì, infatti sono rimasti normali, capito? Sono rimasti normali. Chi è che ha detto davvero? Ma scimmi tu sì. Sembrava Luca. No, non era voce di Luca. Non lo so, vabbè. Ragazzi, io ho salutato Vio, ma con la radio è scaldato, giusto un passaggino per salutarvi, adesso mi vado a fare qualcosa, iniziare a apparecchiare, a preparare gli antipasti eccetera. Un abbraccio a tutte e due, ciao anche a Luca e agli ascoltoni. Bye bye. E ciao Claudio, proseguo, dai. Vai Gianfranco. Sì, ciao Claudio, alle prossime, buona cena. E cosa ti volevo dire, vabbè. Poi, che caso, non mi ricordo più com'è la programmazione, cioè, io oltre a aver fatto oltre a aver imposto le prese USB generalizzate standard, avrei imposto anche le impostazioni standard di tutti i televisori, perché se c'è qualche marca diversa ne esci di testa. Vabbè, quello è un macello, già con DAZN c'ha difficoltà su certi televisori, lo sai, anche se sono smart TV c'è incompatibilità, ci sono dei problemi, e loro ci hanno già programmati su Samsung, LG, Panasonic, Sony, su certi marchi non c'è difficoltà di segnale non compatibile e ti blocca. Io ho 2000 canali, non 2000 canali, 2000 ingressi in quel cavolo di televisore, perché ho il TV Sat, poi ho un decoder di straniero, io ho un ricevitore satellitare, quello classico, vabbè, digitale, e più c'ho un altro analizzatore d'antenna che c'ha il decoder incorporato, e quello lo uso siccome sono puntato su un altro satellite con l'altra parabola, c'ho tutto impegnato. No, il mio diciamo vede tutto, l'unico problema è che c'è questa cagazza di browser come tutti gli LG, che è veramente una penitenza, certe cose non te lo riproduce perché non le piacciono, altre ti rimane il coso che c'è un video magari e non lo può guardare, insomma tutto un po' tutto un casino, capito? E poi c'ha poche applicazioni per vedere diciamo anche altre cose per assistenza eccetera. Poi se lo lasci connesso alla rete te esce, non so se lo fa anche a te questa rottura di palle di pubblicità, che è una cosa veramente micidiale. No, a me ogni tanto mi rompo le scatole perché avevo caricato per questo cazzo di DAZN, ogni tanto se c'è il volume alto, se è rilassato, se ti avvisa che sei connesso a questo cavolo di corso, anche se non lo stai guardando, ti fa un rumore, per dire, quando io mi guardo la televisione, sulla televisione mi guardo quello che ricevo con questo misuratore d'antenna, chiamiamolo analizzatore d'antenna, quello lì il volume è più basso del segnale televisivo normale, lo devo alzare un po' di più, molte volte ti pigli uno spavento, stai guardando un programma e c'è collegato quello là sotto, sull'altra spresa, e siete che c'è il wifi inserito. Sì, lo fa, e poi se lasci il coso sui televisori, ne vuole un po' grandicelli, non mi viene come si chiama, il monster, guai. Comunque, se la guardi su satellite, lo stesso programma è un'altra categoria. Se tu ti guardi Rai 1, per dire, in HD, da satellite, che sono tutti già in HD, e ti guardi lo stesso HD al canale 501 di Rai, è un'altra cosa. E accorgi quando guardi la partita, quando guardi... Cioè, è un'immagine troppo complessa, cioè i segnali digitali terrestri sono troppo complessi, perdono troppo di qualità. L'altro giorno su DAZN, invece hanno avuto qualche problema, che l'hanno portata da HD, l'immagine di corpo è scesa a meno di SD, più bassa ancora, e tra le carte d'immagine sembravano cartoni animati. Ho detto, ma cos'è? Le vedevi bene, tipo quando ti guardavi i vecchi videogiochi FIFA, quelli di 20 anni fa. E cosa è successo qua? Sembrava un videogioco, neanche la partita, per qualche 30 secondi è durata. Allora, quando c'è troppo intasamento probabilmente sul server, che non riescono a gestirlo, abbassano la aumentano la compressione e perdono di qualità. Perché fa così, fa così. E poi ci sono forti differenze sulle latenze, che quello è un problema veramente della lavorazione digitale tipica, perché c'è quello che c'è il processore più potente, quindi più veloce, quindi analizza meglio l'immagine, e poi c'è l'altro che è più lento, quindi va rilento, e anche di lì che si vede la qualità. Adesso rimarranno questi canali della Rai VHF e toglieranno praticamente la parte VHF, quella 700 mega, che sarà tutta la 5G, dedicata al 5G, che tra l'altro credo l'abbiamo già tolta, probabilmente, perché il 5G lo stanno già piazzando. Sì, infatti anche le antenne hanno il filtro LTE proprio per eliminare queste cose, perché se c'erano amplificatori, quelli di vecchia generazione amplificavano anche il 5G e ti creavano disturbi. Hanno cercato di mettere nuovi amplificatori d'antenna limitati con il filtro per quelle bande lì, perché ce n'è un problema. No, ma a me quello che mi fa ridere è che questi segnali terrestri hanno una qualità talmente scarsa. Io sono iscritto con dei gruppi dove ci sono proprio professionisti che fanno installazioni di impianti spaventosi, ti mettono e parlano sempre tutti i giorni della qualità, della perdita di qualità. Io mi guardo la stessa immagine sul telefonino di Rai Play eccetera eccetera, quei canali che ti puoi guardare la televisione, che sono in 4K, tu ti guardi la televisione e sembra che ti stai guardando una fotografia e l'altra la realtà, una immagine completamente scarsa. Poi la stessa immagine io me la guardo, per dire, sulla dove c'era prima, su Sky, e la stessa immagine me la guardo su un altro gestore satellite l'Italia di un'altra nazione, un abisso, però da satellite, è un'immagine completamente diversa, molto ma molto migliore quella che ricevo dal gestore satellitare di un'altra corsa. Ma siamo sempre lì, dipende da tanti fattori. Allora, ok, sì, qua mi sta già dicendo che le preferenziali avanti. E quindi vabbè, si programma così, quelli di Mediaset te lo stanno ancora, tra l'altro hanno messo provvisorio, quindi che dura, sì, io non ho mai notato questa grande differenza comunque. Tu guardati il programma sul telefonino, e poi a parte, come hai detto tu, la latenza, il telefonino cambia diversamente, ma tu se ascolti la radio, la partita, l'ascolti la radio, poi te la guardi in televisione e poi te la guardi col telefonino, dalla radio c'è quasi un minuto di ritardo, rispetto alla radio si presume che sia abbastanza vicino alla realtà dei tempi, però io quando mi guardavo con satellite, cioè io quando ero giù al mare, io stavo già esultando per il gol, e quelli dopo 30-40 secondi il gol, e io l'avevo già visto 30-40 secondi prima, con il digitale, rispetto al digitale terrestre. Perché devi anche considerare un'altra cosa, dunque dal satellite, per quanto molto lenta, tipicamente molto lenta, in realtà c'è una latenza da paura, ti arriva prima di quella terrestre, per un motivo molto semplice, che quella terrestre a sua volta, pur essendo più veloce teoricamente, è servita da tantissimi ripetitori e sottoripetitori, quindi il servizio può essere anche molto molto più oneroso dal punto di vista dei rivi, delle dorsali e così via. Sì, sì, ha detto bene, c'ha troppe elaborazioni, cioè ci sono troppi passaggi e ogni computer deve rielaborare il segnale, lo deve rimandare, più c'hai il tuo ricevitore che deve rielaborare quel segnale, se c'è un ricevitore di qualità riesci a elaborarlo in una frazione di secondo e magari te la dà quasi immediatamente da quando lo riceve, però se c'è magari un processore all'interno del ricevitore tuo che non è di ultima generazione veloce, è come quando fai il cambio canale. Io ho un televisore in camera di mia figlia, il cambio di canale è istantaneo, gli altri due che c'ho ci passa sempre qualche frazione di secondo. Beh sì, ma anche quando tu parli con uno che ha il telefonino, se siete a vista, vedi che anche lì a seconda della cella c'è un diverso, c'è una latenza diversa, ecco. Tutto lì adesso, poi sono capitato a guardare quelli della Sardegna, quelli di Sassari, ma ce ne sono certe che fanno, come si vuol dire, l'ascamo veramente. Sembrano le riprese degli anni 70. Sì, sì, quello già è vero. Ma con 5G tutti questi problemi di latenza scompariranno, perché sono tempi di risposta molto, ma molto veloci. Soprattutto hanno fatto, oltre che per tanti motivi economici, diciamo, per le questioni di anche per sicurezza, per queste macchine senza guida, senza pilota, l'hanno collaudato a livello europeo, è stata la prima volta in Europa, l'hanno fatto nella Sassari Urbi, hanno messo dei sensori, guida autonoma senza pilota, e hanno fatto delle prove proprio in quel tratto della strada nuova di Olbia, l'unico punto in Europa, il primo in Europa, vabbè quello faranno altre parti, Germania, però il primo posto in Europa dove hanno collaudato il sistema di guida senza pilota è stato nella stazione di Olbia, un tragitto di pochi chilometri. Sì, però c'è una cosa errata, allora il 5G o il 7, il 5G praticamente non lavora sulla latenza per un semplice motivo, che la latenza è una costante fisica, puoi migliorare con una più veloce compressione, con dei processori più performanti e così via, però la latenza purtroppo è sempre presente. Quindi è una cosa, è una limitazione che bisogna accettare per molti servizi. Hanno usato il 5G, quindi la 700 MHz in parole povere, per un motivo banale, che imbatte di più rispetto alla 1008, alla 2005 e così via. Quindi hanno guadagnato in termini di portata radio e quindi forse di qualche minor ripetitore, ma allargando la banda, anche se poi allargando la banda siamo sempre punta a capo, più allarghi la banda e meno la portata. Quindi è un cane che si morde la coda, mia, alla fine. Vabbè, ma se per esempio il 700 non è la frequenza fondamentale, loro usano frequenze molto più alte, anche fino ai 23 giga arrivano, e usano potenze più basse perché sono più vicini ai ripetitori, sono uno attaccato all'altro, pochi, perché non possono fare più di 500 metri come portata teorica, per cui li mettono anche nei pali della luce ogni 100 metri questi ripetitori. Il 700 MHz è l'ultimo passaggio, diciamo, l'hanno preso perché era troppo, come si chiama, cioè hanno bisogno di tanta quantità di banda, diciamo, per cui hanno fatto una 700 in su, arrivano sino ai 23 giga, con potenze limitate, però a quelle potenze lì devi avere distanze vicine tra i ripetitori, però la latenza sul sistema 5G è di millisecondi, non è più di 10, di 100, come si chiama, come poteva essere prima, magari 0,3 secondi, eccetera, eccetera. La latenza diminuisce se c'è il ripetitore a tre passi che non fa troppi giri, perché ripeto, è una questione fisica, più aumenterai i passaggi, che siano switch, dirette, che siano, che di questo mi stiamo parlando, poi alla fine sono tutti switch dirette quelli che comandano, noi li chiamiamo celle, ripetitori, però quella è relativa alla parte trasmittente, ma la parte veramente che dà dati sono switch dirette, le latenze quelle sono. Certo ti dicono è velocissimo, più banda, certo i contenuti sono molto più pesanti e così via, però alla fine dei conti siamo sempre lì, chi comanda la fisica? La fisica non è, è molto difficile da prendere in giro, puoi adottare degli accorgimenti, quindi facendo pochi giri e poche ripetizioni in poche parole, ma su un sistema a catena come quello della telefonia e di altri servizi, insomma. Sì, no, lo saprei meglio di me, ma stanno utilizzando sistemi di compressione completamente diversi, che hanno meno problematiche, e naturalmente ci saranno anche sistemi di trasmissione ancora più evoluti, perché prima c'era MMPEG-2, adesso sono al 4, sono arrivati al 4, per cui c'è un miglioramento in tutti i sensi della fare, della... poi stanno usando frequenze che prima non si utilizzavano, meno disturbi, meno problematiche, c'è questa compressione nuova che permette di utilizzare l'altezza, esisterà sempre, però se stiamo parlando di millisecondi contro i 0,3 è qualcosa di accanto. Se te ne accorgi, sì. Guarda, l'esempio sulle nuove compressioni, che però la compressione è un'altra cosa, significa solo un aumento della possibilità di inviare contenuti a parità di peso. Il peso sarebbe la grandezza in termini di byte e così via. Io posso fare un paragone con la videosorveglianza. C'è stata la prima, la H264, poi la 265 e poi la 265 più, credo che sia, o la 265, la 266, se non ricordo male, queste erano le sigle. E ti posso solo dire che una registrazione valeva praticamente di un'intera giornata, cioè anzi in termini di giorni, un hard disk da 500, da 500 giga ti facevano 3 giorni, 3-4 giorni di immagini H24 sempre. Con quel sistema di compressione io riesco ad arrivare al posto di 3-4 giorni a 5-6, ecco, è quello il grosso vantaggio di una forte compressione, fermo restando la qualità. Sì, sì, assolutamente, tu stai immagazzinando più formulazioni utilizzando lo stesso spazio che utilizzavi prima, no, quello la compressione, no, quello non c'è ombra di dubbio, dice. Però il discorso della 5G l'hanno fatto, oltre naturalmente per il discorso della guida autonoma, di lì ci sono tante società, a partire dalla Tesla, per le macchine che sta già facendo, in certi punti ci sono già questi discorsi qua, guida autonoma, ma soprattutto per la telemedicina, lo saprai anche tu meglio di me, quando c'hai un tempo di ritardo di una frazione di secondo, lì non puoi sbagliare, perché se devi intervenire con certe operazioni particolari al cuore, dove ci sono degli elettrodi, devi sparare quella informazione o quel raggio in quella frazione di secondo, è importantissima. E infatti il vantaggio più grande è quello lì, perché hanno detto non da me, naturalmente a chi li studia queste cose, la latenza è molto molto bassa, ma di gran lunga più bassa rispetto a guardare la televisione, non so se quando fanno i collegamenti dice la parola e dopo una frazione di secondo rispondono perché c'è un ritardo, mentre lì il ritardo è quasi ininfluente perché utilizzano dei sistemi, un sistema di molto più evoluto di quello che si è sino adesso utilizzato, parlano del 5G che sia inquinamento, sono tutte le fesserie che racconta la gente, assolutamente no, addirittura usano potenze molto ma molto più basse rispetto a quelle che utilizzano nel 4G o nel 3G e soprattutto abbiamo dei valori di riferimento che sono di gran lunga inferiori a quelli di tutte le altre nazioni del mondo, anche un decimo, e addirittura le vogliamo aumentare perché sono troppo basse l'intensità di campo elettrico in questo caso. Sì, ma come ho detto prima, il discorso della latenza è un discorso fisico di una del ritardo di una comunicazione da un punto all'altro, quindi loro fanno, molti giornalisti, quelli che scrivono eccetera, confondono una cosa che è molto importante, tipo per le auto, è impensabile guidare un'auto fino a determinati punti, è molto molto molto complesso, e per fare quello che loro fanno attualmente, non si possono certo affidare a quel tipo di latenze, per il semplice motivo che succederebbero disastri. E allora a cosa si ricorre? La vera evoluzione non è tanto riuscire a mandare una banda larga super compressa a un posto, ma è la decisione prioritaria della macchina, quindi è dentro la macchina che c'ha un chip, che è all'interno della cosiddetta intelligenza artificiale, che è quella veramente che fa le cose, non tanto la connessione 5G, l'intelligenza artificiale ti permette di riconoscere i segnali, di riconoscere i pedoni, di riconoscere la strada, poi tramite 5G può chiedere aggiornamenti se ci sono blocchi, se ci sono incidenti, se qualcuno ti ha cercato, la posta elettronica, ma di nuovo sono cose secondarie. Tu pensa che ovviamente più aggiornati di loro non c'è nessuno, parlo dei militari, quando utilizzano il drone c'ha una portata ben predefinita nel cosiddetto contatto immediato, cioè punto punto, da un punto arrivi al drone, dalla stazione radio direttamente al drone, e allora va bene, la velocità è quella della luce, più tutte le codifiche che anche lì sono di mezzo, va bene, però la velocità diciamo è abbastanza utile per fare quel lavoro. Il drone ha tempi di risposta molto bassi, tieni presente, perché comunque è un aereo. I problemi nascono dopo un po'